sogni imprecisi, maledetti, sciagurati, teoremi postulati. Addio alle biciclette, addio alle figurine, ai dipinti su di un piatto, al pane fatto a fette. Mi riflette questo cielo, adesso viola come il fegato, in fuga come Dedalo da un'isola che c'è. I 12 minuti sono il tempo di un silenzio, di un azzurro ciclamino affogato con consenso. A me sembra l'estate, a te sembrava pioggia, il liquido dei sassi asciugato dalla sete. E finisce che non so più fare niente, e finisce che non parlo mai di niente. Dammi baci che non dicano più niente, che non dicano più niente, che non dicano più niente. E finisce che non so più fare niente, e finisce che non parlo mai di niente. Perché è più facile se tu non sai di niente, perché tu non sai di niente, perché tu non sai di niente. Tocco note di luce, le respiro quando sento le tue mani sul mio mento. Fumo schegge di voce, sigarette per domani, noci dolci le tue unghie. Le mangio con parole che non dicono mai niente, così cerco dentro il vuoto. Mi accompagno con il tempo di cadere ed evito il contatto. Annuso la tua pelle, squame gialle, cioccolato. Dopo vedo su di me vecchie foto e caramelle. E finisce che non so più fare niente, e finisce che non parlo mai di niente. Dammi baci che non dicano più niente, che non dicano più niente, che non dicano più niente. E finisce che non so più fare niente, e finisce che non parlo mai di niente. Perché è più facile se tu non sai di niente, perché tu non sai di niente, perché tu non sai di niente. Di Verlaine, i lividi, le mani, questa assurda sensazione di non essere più umani. Ma sei tu che mi allontani, sei tu che mi incateni, che mi uccidi sottovoce mentre piangi sotto pelle. Infetti tutti i luoghi con patetica eleganza. Non tutto il legno brucia e chi capisce tace. E finisce che non so più fare niente, e finisce che non parlo mai di niente. Dammi baci che non dicano più niente, che non dicano più niente, che non dicano più niente. E finisce che non so più fare niente, che non parlo mai di niente. Perché è più facile se tu non sai di niente, perché tu non sai di niente, perché tu non sai di niente.